Commissario Montalbano. L'odore della notte di Andrea Camilleri. Sceneggiatura in 10 puntate di Francesco Bruni e Salvatore De Mola. Regia di Alberto Sironi. Prima puntata. La persiana della finestra spalancata sbatté tanto forte contro il muro che parse una pistolettata e Montalbano s'arrispigliò di colpo. E proprio in quell'istante suonò il telefono. Era Catarella che lo informava di quanto stava accadendo nell'ufficio del ragionier Gargano, dove era acciasito uno armato di revolvero che aveva intenzione di sparare all'impiegata perché voleva narrare i soldi che Gragano gli arrobò. Chi? L'ostaggio, come si chiama? Si chiama Cosentino, la segretaria del Gargano. Ho capito. Gallozzo, ma quanti anni ha lui? Ma più o meno 80 anni, è una brava persona. Poi non capisco, improvvisamente... Ah, è arrivato salvo. Pazio, lasciate passare. Spada, per cortesia. Per favore. Fai indietreggiare un po' ste persone. Per cortesia, ve l'ho detto. State un po' più indietro, no? Via. Montalbano venne riconosciuto e circondato. Si fece largo ad ammuttona e a vociate e finalmente arrivò di fronte alla porta d'ingresso. Buongiorno, commissario. Buongiorno, commissario. È sempre dentro. Sta dentro. È armato ancora? Sì. Arrivo i soldi che quel figlio di puttana di Gargano mi ha rubato e io ammazzo l'impiegata! Arrivo i soldi, se non ammazzo l'impiegata! Carissimo geometra Garzollo, che piacere vederla, come andiamo? Bene, grazie. Stia fermo, se non sparo! Commissario, per l'amor del cielo, se qualcuno si deve sacrificare per il ragionier Gargano, eccomi qua, sono pronta. Ma non diciamo fesserie, che qui non si sacrifica nessuno. Scusi, geometra, ma lei dov'era ieri sera? E a lei che gliela fotte? Mi risponda, nel suo stesso interesse. A casa mia. Ero tornato dall'ospedale. Ma lei non l'ha vista la televisione? A te la televisione, queste minchiate, che me la racconta a me? Ah, ecco perché non sa niente. E che cosa dovevo sapere io? Ma come, il ragionier Gargano è stato arrestato. Veramente? Parola. A Messina, ieri, aveva con sé 12 valigie piene, rasa e rasa di denaro. Oggi stesso a Monteluso, in prefettura, comincia la restituzione dei soldi. Lei ce l'ha ricevuta? Certo, ce l'ho qui in tasca. Sicuro? Sì, in tasca, qua. E allora, non c'è problema. Ma in prefettura ci posso andare domani? Certamente. Sto in macchina, presto. All'ospedale. Senti, per favore, mandami tutta questa gente e mi raccomando, sì. Se qualcuno ti chiede di Gargano, tu non dire niente, non aprire la bocca. Sì, ma avverto in prefettura che si è diffusa la falsa notizia dell'arresto di Gargano e perciò si presenterà un sacco di gente per la restituzione di... Sì, hai ragione. Ci pensi tu? Sì. Ci vediamo al commissariato. Sì, ci vediamo dopo. Ciao, salve. Tutto bene, signorina? Vuole un bicchiere d'acqua? Un caffè, qualcosa? Un bicchiere d'acqua, grazie. Subito. Tortorella? Sì? Porta un bicchiere d'acqua alla signorina. Subito, commissario. Ma perché gli vogliono tanto male a ragionier Gargano? Come perché, signorina? Questo è sparito con i loro soldi. D'accordo, ma perché pensare subito a male? Può avere perso la memoria per un incidente stradale, per una caduta, che so. Che dire, io posso comprendere, magari anche apprezzare la fiducia che lei ripone nel suo datore di lavoro, ma quest'uomo ha gabbato mezza pagata, è scappato anche con tutto il malloppo, si trattava di diversi milioni di euro, lo sa? Sì, lo so. Lei non ha idea di dove siano finiti questi soldi? Io so che i denari lui li investiva, in cosa e dove non lo so. E lui con lei... Come? Che intende dire? Dicevo, lui con lei, dopo che è sparito, non si è fatto sentire. E se lo avessi fatto, lo avrei riferito al dottor Augello. È lui che mi ha interrogata. E ripeto magari a lei quello che già gli dissi. Il ragionier Gargano ha un solo scopo nella vita: fare felici gli altri. Sì. Ecco l'acqua, signorina Cosentino. Grazie. Senta, signorina, le do un consiglio, mi permetta. Chiuda subito l'ufficio e se ne vada a casa. Perché? Perché da una mezz'oretta tutto il paese saprà dell'arzare ingegno che ci ha avuto il geometra Garzullo e non vorrei che qualcuno, qualche imbecille, ci riprovasse. Ecco, non mi sembra il caso. No, io questo posto non l'abbandono. E se il ragioniere torna e non trova nessuno? Mi immagino la disillusione. Ah, un'ultima cosa. Lei ha intenzione di sporgere denuncia contro il geometra Garzullo? Assolutamente no. Meglio così. Arrivederla, buona giornata. Arrivederci. In commissariato c'erano una trentina di persone eccitatissime che reclamavano animatamente e che Augello teneva a distanza con difficoltà. Pensate che c'è il commissariato pieno di gente. Ma che succede? E viene, poi ti spiego. Il signor commissario! Andiamo al signor commissario! Dispiace, ma è stata data una notizia sbagliata, non è stato ritrovato nessun Gargano, questa è la verità. Silenzio! Sapete che cosa facciamo? Adesso voi ve ne andate a casa e state tranquilli. Io vi prometto che faremo il possibile per ritrovare questo cornutazzo. Va bene? Mercato. Io se piglio questo Gargano me lo mangio. Senti, ha telefonato alla prefettura di Montelusa per dirgli che un sacco di gente andrà lì per la restituzione del denaro? Sì, io ho detto che purtroppo si era diffusa questa falsa notizia dell'arresto di Gargano. Che tra l'altro mi dispiace pure che non hanno preso quel grandissimo cornuto, sa? E mica mi dirai che è pure tu. Lasciamo perdere pure io. Ma porca putta. Salvo, lasciamo perdere, eh? Così, lasciamo perdere, che te conviene? Senti, cerca di farmi capire bene questa faccenda. Allora, circa 2 anni fa arriva da Milano questo ragionier Gargano, giusto? Benissimo. Arriva e per promuovere il risveglio economico della nostra amata e travagliata terra apre 4 finanziarie, una a Quabbigata, una a Montelusa e 2 nei centri più importanti della zona. In poco tempo riesce a trovare circa 100 di clienti. Dopo 6 mesi a questi gli restituisce il 20% di interesse. Puoi immaginare, c'è stata la fila per mettergli in mano i soldi e la faccenda è andata avanti fino a che un bel giorno il ragioniere è sparito. Tu che ne pensi? Di che cosa? E di che stiamo parlando, Mimì? Secondo te questo ragionier Gargano dove è andato a finire? E secondo me tra i clienti, quelli grossi, c'era qualche mafioso che quando ha capito che Gargano lo stava fregando. Ah sì? E tu me lo spieghi dove troviamo un mafioso tanto deficiente da non capire che questo Gargano è un truffatore? Guarda che questa è anche l'idea di Guarnotta, non è solo la mia. Adesso che c'entra Guarnotta? E questore ha deciso che siccome lui è un esperto in truffa e deve partecipare pure lui all'indagine. Ah, ma che bellezza! Ci abbiamo pure il dottor Guarnotta della mobile di Montelusa tra i piedi. Ma è una meraviglia! Mannaggia! Senti, secondo te questo Gargano quanti soldi è riuscito a racimolare? Sempre secondo Guarnotta una 10 milioni di euro. Quando è l'ultima volta che ha dato notizia di sé? Una mesata fa. Ha telefonato alla Cosentino dicendo che stava per arrivare qua, da Melano. Come? Una mesata fa ha telefonato alla Cosentino dicendo che stava per arrivare qua, da Milano. Oh, ma Catarella ha contagiato tutti in questo commissariato. Come, nel senso, con quale mezzo? Come ha fatto? In aereo, in macchina, si è buttato da un elicottero? La Cosentino non lo sapeva. Qua a Vigata Gargano si muoveva con una BMW Serie 5, però non l'abbiamo ritrovata. Avanti. Mi scusasse, dottore, c'è al telefono il signor questore che cerca di lei. Grazie, Caterina. Dove è il dottore? Scusami un attimo. Pronto, signor questore, Montalbano sono. Montalbano, venga immediatamente qui da me. Sì, signor questore, tempo 1 ora sono lì. Montalbano, il significato dell'avverbio immediatamente. Ha un quarto d'ora per presentarsi nel mio ufficio. Mi sono spiegato? D'accordo, signor Questore, come dice lei? Immediatamente. Arrivederla. Allora, torniamo a noi. Oltre a questa Cosentino, aveva altri impiegati qua a Vigata? Altri due picciotti. Uno Giacomo Pellegrino, laureato in economia e commercio. L'altro Michela Manganaro. Se stava laureando, magari lei. Ci voglio parlare, ce l'hai da di queste due? Sì, ce le ho. Me li fai avere? Te li faccio avere. Va bene. Senti, fammi una cortesia, va. Fra una mezz'oretta telefona al questore e gli dici che mentre andavo da lui di corsa mi sono scatafasciato con la macchina fuori di strada. Niente, di grave, ma mi sono messo tre punti. Nel pomeriggio, se mi dovessi sentire meglio, gli andrò a fare visita, d'accordo? D'accordo. Ciao, amici. I rapporti fra Montalbano e il questore Bonetti Alderighi non si potevano dire improntati a reciproca stima e simpatia. Se gli telefonava, veniva a dire che c'era qualche sgradevole faccenda da discutere. E lui, in quel momento, non ne aveva gana. Non ne aveva proprio gana. Il commissario Montalbano, l'odore della notte. Con Luca Zingaretti, commissario Montalbano, e Michele Gammino, voce narrante. E con Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Daniela Marazzita. Musiche originali di Franco Piersanti. L'odore della notte di Andrea Camilleri è pubblicato da Sellerio. Posta elettronica sceneggiato @rai.it.